mia che mi riscalderà con il fuoco di un'idea. Uomo solo, uomo a metà, domani nei suoi occhi tutto il resto affogherà. Tremare.